L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti da Achille Corea, 14 agosto 2012, siamo qua a 16:31 e 45 secondi in diretta come in tutto questo mese di agosto per tenervi compagnia, ma anche e soprattutto per cercare questi 24 simboli dell'Italia da salvare, per costruire questo ritratto dell'Italia vista dallo spazio. Oggi, come vi ho detto nel lancio, vi chiedo una cosa serissima: oggi dobbiamo scegliere un gioco. Un gioco che rappresenti gli italiani, un gioco, insomma, possono essere tante cose, dalle carte ai passatempi tipici della spiaggia, i giochi con la mente, i giochi d'azzardo, non lo so. Ditemi voi all'800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate, ma prima... Posto numero 11, in attesa di assegnazione. Giustamente la voce implacabile di App 9000 ci ricorda che qui c'è ancora un posto da assegnare, il posto numero 11. Ieri abbiamo parlato di canzoni, alcuni di voi hanno chiamato, insomma, puntando molto sulla bellezza della canzone, sulla fama, su, insomma, le canzoni dei tempi d'oro della musica italiana, ma in diversi volevano un pezzo che raccontasse un po' l'Italia e gli italiani. Infatti ci sono state citazioni per La terra dei cachi di Elio e le storie tese, per Aida di Rino Gaetano, per i Nomadi. Alla fine passa un pezzo che, secondo me, insomma, risponde a questa esigenza. Magari non piacerà a tutti, ma in fondo noi siamo un po' contraddittori e quindi scegliamo un pezzo di Giorgio Gaber che al suo interno contiene una contraddizione. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. E quindi, beh, questa ci sta nella nostra navicella spaziale virtuale, insieme alla teglia di parmigiana alle melanzane, Alex Zanardi, il rumore della 500, il CD di il DVD di Amarcord, una parrucca disordinata, e cos'altro ci abbiamo? La Divina Commedia, la pizza, un centrotavolo, una scarpa da donna, la scena di Totò e Peppino a Milano, Noi io volevo savoir. Ci mettiamo anche il 45 giri di Giorgio Gaber. Posto numero 11, assegnato. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. Noi siamo arrivati più o meno a metà del nostro viaggio. Oggi cerchiamo di assegnare il posto numero 12 su 24 disponibili e io ci vorrei davvero mettere dentro un gioco, anche se so che il momento è quello che è e forse non c'è tanta voglia di giocare, cosa che secondo me è un pochino un errore, perché io capisco, insomma, le difficoltà, il momento che abbiamo, ma a essere troppo seri a volte si perdono delle opportunità e si perdono dei punti di vista. Io credo che i giochi possano essere a volte una cosa incredibilmente seria e incredibilmente significativa di quello che è un popolo, di quello che è una nazione, di quello che è una mentalità. Quindi vi chiedo di chiamarci all'800 24 00 24 o di mandarci un sms al 349 238 6666, e intanto do il benvenuto al primo ospite, che è Andrea Angiolino. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Autore di giochi, esperto di giochi, anche autore del dizionario dei giochi Zanichelli, quindi proprio una catalogazione degli infiniti, credo, giochi esistenti in Italia. Esatto, con Beniamino Sidoti abbiamo fatto quest'opera smisurata rispetto a quello che era il lavoro iniziale. E effettivamente si gioca in tutti i modi, con carte penna, con carte da gioco, con tutto. Io vorrei sapere da te se c'è, intanto partiamo, diciamo, dalla prima domanda, che è quella che poi, a cui noi puntiamo, se c'è secondo te un gioco in cui il carattere degli italiani emerge maggiormente o in cui gli italiani si potrebbero riconoscere. Io parlerei di Scopa e Scopone. Mi ricordo dei momenti in cui proprio la nazione si è riconosciuta, per esempio in Berzot e Pertini che giocavano a Scopone con Zoff e Causio tornando dopo aver preso la Coppa del Mondo, e sull'aereo che riportava la Coppa del Mondo si giocava appunto a questo gioco diffuso in tutta Italia. È un po' un gioco nazionale. È un gioco, te lo chiedo così proprio da ignorante, è un gioco italiano anche come origine o deriva da qualche altro paese? È sempre difficile trovare l'origine. Io direi che la scopa è italiana, mentre sulla briscola potremmo trovare delle origini nella brisca spagnola, altri giochi sono più incerti. La scopa la definirei abbastanza italiana. È bella perché poi ha tante varianti, appunto già lo scopone può essere scientifico e si discute molto, perché il bello degli italiani è anche discutere allo stremo delle cose più futili, se nella carbonara serve la pancetta piuttosto che il guanciale. È così che il guanciale, te lo dico io, guarda, chiudo la discussione, il guanciale. È una buona ipotesi. Se la pasta con le sarde deve essere rossa o senza pomodoro, quello dipende da dove chiediamo. E così lo scopone scientifico, solitamente quello con quattro carte in tavola, tutte le altre carte distribuite, però per alcuni è scientifico quello in cui invece si danno 10 carte a testa e poi si gioca. È bello perché appunto ha tante varianti. I giochi di carte stessi sono una cosa, come la cucina, come tante cose italiane, le favole eccetera, che hanno molte varianti locali, anche perché se prendiamo un mazzo di carte regionali, credo che ce ne siano 16, forse 18 in tutta Italia, se andiamo a vedere fra piacentine, trevigiane, piemontesi, piuttosto che quelle dell'Alto Adige con i semi tedeschi. Andrea, senti, c'è anche una, diciamo, una specie di simbologia nelle carte, diciamo, non dico di classi sociali, però di vari ambienti. Esempio la briscola e il 3-7 richiamano subito il bar, mentre, che ne so, il burraco, non so, un certo periodo io malapena so cosa sia, leggevo che comunque tutti i VIP giocavano a burraco, qualsiasi attrice o attore, insomma ci sono anche delle differenziazioni, oltre che per località, anche per tipologia di persone? Ma direi di sì, nel senso che ci sono dei giochi popolari come il 3-7 che si giocano in qualunque osteria e poi magari vengono apprezzati anche da molti intellettuali, diciamo. Ci sono altri giochi che magari fra qualche decennio fa poteva essere la canasta, più di recente il burraco, adesso il Texas Hold'em, necessariamente non giocato a soldi ma volendo anche per il piacere di giocarlo, e sono dei giochi veramente di moda. E sicuramente bridge, canasta o burraco sono dei giochi anche da circoli alti, ma che poi si giocano pure in realtà in spiaggia, si fanno tornei nei locali sulla riviera piuttosto che in montagna. Alla fine direi che c'è una certa trasversalità. C'è contaminazione. Nessun gioco di carte è veramente esclusivo. Come ci poniamo con questo ritorno alla grande del poker, grazie al Texas appunto? Lì un po' aiuta l'amore per l'azzardo, però certi giochi sono belli. Il gioco dell'oca si può giocare anche a caramelle, un tempo magari si giocava per posta in denaro, non c'è bisogno di arrivare all'azzardo vero. E il poker sì, ha un suo seguito anche con le nuove tecnologie, con l'online eccetera, però poi è di nuovo una moda che funziona bene, anche se non si gioca necessariamente soldi, anche se si gioca per il piacere di farlo. Senti Andrea, ti chiedo per finire una cosa, ti chiedo di essere sintetico, magari di sceglierne una. Noi a volte ci piace scoprire che da alcune cose che sembrano leggere, sembrano futili, poi in realtà sono anche delle risorse economiche. Noi italiani, so, siamo anche inventori e produttori di giochi che poi vengono esportati in qualche modo, me lo confermi? Devo dire che in questo momento di crisi molti editori medio-piccoli di giochi hanno successo all'estero, molti autori di giochi, posso citare Emiliano Sciarra con Bang, 1 milione di copie vendute fra gioco base e espansioni, più 2 milioni di plagi cinesi a cui non si riconoscono royalty, se fosse un rocker avrebbe avuto un sacco di dischi di platino. È un autore di giochi che è successo nel mondo, Maggine Pitello e Di Meglio hanno fatto un gioco sulla Guerra dell'Anello che ha vinto una gara d'appalto di idee in tutto il mondo, venduto in 12 lingue. Io stesso nel mio piccolo con Wings of War, Wings of Glory, ho fatto un giochino di 2 lire che ha funzionato in tanti paesi. Devo dire che se c'è un settore vitale e funzionante è quello dei giochi da tavolo, dove il gioco d'autore italiano è apprezzato all'estero più di quanto gli italiani stessi sospettino. Andrea, grazie, ti ringrazio, è bello sapere anche che insomma ci difendiamo anche su questo. Ricordo il tuo dizionario, il dizionario dei giochi Zanichelli, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. No, Verzo, lo faceva lui il 7. Devo metterlo là. È vero. Sono tutti figli del L'audio era quello che era, però i più, diciamo, attenti, perché insomma è un audio ripreso da un aereo nell'82, era, diciamo, uno scambio tra Berzot e Sandro Pertini, con un Pertini arrabbiatissimo perché non si era giocata la carta giusta. Era, lo citava anche Angiolino, l'epico ritorno a casa degli azzurri sull'aereo, in cui c'era anche una partita a Scopone, mi pare. È il prossimo ospite che abbiamo, e invece è un matematico e un esperto di enigmistica, Ennio Perez, benvenuto. Benvenuti a voi. Allora io le devo chiedere, anche perché siamo in estate, per quanto sarebbe riduttivo dire che l'enigmistica è un gioco estivo, è un gioco che c'è tutto l'anno, e in che rapporti sono gli italiani con questo gioco? Io ricordo che lei ha scritto anche un libro che si chiama L'enigmistica bellezza, in cui si parla di quest'arte, diciamo, anche come allenamento della mente. Soprattutto un allenamento della mente, e allenamento divertente. Non si può fare tutto l'anno, non si può fare tutta la giornata quando nel periodo lavorativo, quindi d'estate, quando si ha più tempo, ovviamente ci si dedica di più a questa attività molto produttiva, insomma, per mettere in moto tutti i neuroni del cervello. Sì, neuroni che, insomma, come dire, è meglio anche in questo periodo allenare. Come ci difendiamo noi italiani nell'enigmistica? È una passione che abbiamo, siamo anche dei produttori, so che, insomma, ci sono anche, leggevo, lei ha scritto anche dei corsi per diventare autori di enigmi. Come siamo messi da questo punto di vista? Dunque, la lingua italiana si presta molto all'enigmistica, per cui alcuni giochi di produzione italiana sono notevolmente eleganti rispetto ai giochi di altri paesi che hanno altre lingue, perché la nostra lingua ha un lessico, insomma, una serie di parole che hanno una struttura molto regolare, molto flessibile, per cui si riescono a fare molti giochi che in altre lingue invece non è possibile. Per cui, non so, la produzione nostra di Rebus è superiore a livello mondiale, insomma, i nostri Rebus sono invidiati dagli altri paesi. Il problema dei giochi enigmistici, linguistici, è che possono circolare solo nel paese che usa quella lingua. Non sono esportabili, chiaramente. Non si possono tradurre. Si possono tradurre a costo di cambiarli completamente, quindi tanto vale rifarli. Circolano in Italia e nel Canton Ticino, insomma, però l'unico estero, il Vaticano. Sì, diciamo che è un po' il nostro limite nel livello delle esportazioni. Lei è autore, Perez, di una cosa che viene chiamata il cruciverba più difficile del mondo. Ce lo spiega in sintesi? Sì, il cruciverba è un gioco in teoria nozionistico, perché ci sono delle definizioni, bisogna rispondere a quelle definizioni in maniera lineare, no? Quindi bisogna attivare la memoria, la propria cultura. Non è un gioco enigmistico diciamo, in termini, in senso stretto. Sì, insomma, teorici. Per cui gli enigmisti puri non amano il cruciverba, lo considerano un gioco minore, come se fosse un gioco di enigmistica popolare, non di enigmistica colta, insomma. E io ho voluto cercare di smentire questa teoria, questa tesi, cercando di trasformare ogni definizione del cruciverba in una sorta di enigma da risolvere. Quindi un enigma, una serie di enigmi che formano un cruciverba, se capisco bene. Ma a ogni definizione bisogna cercare di non sforzare la memoria, attingere alla propria cultura, ma cercare di capire che cosa vuol dire quella definizione. Ne faccio un esempio banale: non so, se io scrivo "restò in casa", uno pensa a qualcuno che non era uscito dalla propria dimora. Ci dà la risoluzione di questa cosa che ha detto dopo la viabilità, perché sennò siamo stretti. A tra pochissimo. L'Italia vista dallo spazio. Abbiamo simulato le Alpi e che tra poco cominceremo la discesa verso l'aeroporto di Zurigo, dove contiamo di atterrare in perfetto orario. 36, orizzontale a due lettere, attraversa Torino. Rappresentante, lo scrivo piccolo, ci sta. Questa era Diego Battantuono che faceva a suo modo il cruciverba in Vacanze di Natale 90, se non ricordo male. Ennio Perez è di nuovo con voi. Restò in casa, come continuava? Ecco, restò in casa, uno deve prendere la parola restò, la mette dentro casa e viene carestosa. Ah, ecco, io non ci sarei arrivato, per esempio. Ci arrivano, perché per esempio l'edizione di quest'anno già ha almeno 15-16 salutori completi. Perez, la devo salutare, è online il gioco, il cruciverba, il suo cruciverba difficile? Sì, si può trovare su parole.tv, www.parole.tv. Grazie a noi Perez, ricordiamo anche il libro Elenigmistica Bellezza, uscito con Ponte alle Grazie. E io no, facciamo così, voglio sentire un po' di ascoltatori che stanno arrivando all'800 24 00 24. Davide da Cuneo, benvenuto. Grazie per farmi partecipare alla trasmissione. Qual è il gioco che scegliamo, Davide, e perché? È un gioco che avete già citato, che ha citato uno dei suoi ospiti, ed è Bang, sì, della Danish Game, sì. Esatto, ed è un gioco molto bello perché permette fino a 12, anche 14 persone di partecipare. Ha un gioco che ha dei costi molto minimi e permette un divertimento continuo. Che perché rappresenta l'Italia? Perché rappresenta l'Italia perché è un classico gioco spaghetti western in un'ambientazione molto simile ai film di Sergio Leone, dove abbiamo il nostro rinnegato, il nostro sceriffo, i suoi vice, i fuorilegge che si combattono a colpi di spistolettate. È un gioco molto da ridere, molto semplice, adatto a quasi tutte le età. Va bene. È più un gioco italiano. Beh, questo sì, di produzione iper italiana. Io non so se oggi noi riusciremo appunto a citare solo giochi fatti in Italia, perché già con giochi di carte, insomma, corriamo questo rischio, ma secondo me non importa. Secondo me in fondo non è importante oggi, almeno oggi, che sia strettamente un gioco italiano. Se poi in qualche modo ce ne siamo appropriati e se poi in qualche modo siamo riusciti a farlo nostro, a giocarci, a farlo diventare parte della nostra cultura, per me insomma va benissimo e io non mi faccio questo problema. Cito un sms arrivato al 349-238-6666, anzi ne cito due. Uno senza nome cita le figurine dei calciatori, suppongo siano proprio i giochi in cui cercavi di conquistare le figurine dei altrui, insomma degli altri giocatori. E poi invece Marina da Milano ci scrive: ricordo le interminabili partite a Machiavelli, ma non trovo mai nessuno che lo conosca o comunque che abbia voglia di giocare. Marina, noi proviamo a lanciare questo nello spazio anche questo, diciamo, appello. Se c'è qualcuno che sa giocare, insomma, si faccia avanti. Prima di andare avanti voglio farvi sentire una cosa che non è radiofonica, ma perdonatemi, voglio farvi sentire una scena senza parole. Dovreste alzare un po' la radio, potendo o avvicinarvi. Ecco, io penso che abbiate quasi tutti riconosciuto questo rumore diciamo inconfondibile, che è il rumore della pallina che entra nella porta del calcio balilla o, se volete, biliardino. Questa scena è una scena del postino in cui Troisi entra nel locale in cui c'è la cucinotta, non si dicono nemmeno una parola, giocano solo a biliardino, si approcciano così e a un certo punto lui cerca la pallina e lei fa vedere che ce l'ha in bocca. Ecco, per me quello, diciamo, è il sogno di tutti noi che, bravi o non bravi, giocando a biliardino, rullando o non rullando, abbiamo cercato di impressionare qualche ragazza. Due! Senza le tre c'è la stessa, non sei più. Fiore del silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te. E a proposito di film, a proposito di, diciamo, immaginario cinematografico elevato ai giochi, questo era Sapore di mare ed era il momento del rubabandiera, in cui poi in realtà era solo una scusa per guardarsi, sfiorarsi e toccarsi. 800240024, Cristian da Brescia, benvenuto. Grazie mille. Cristian, un po' l'audio, ma sto guidando. Stai l'auricolare, sì, non come... Sì. Allora, qual è il gioco che tu scegli? la tombola, perché ritengo che sia un momento di aggregazione. Quante volte nella baita estiva invernale abbiamo giocato con gli amici, con i produttori, ore. La tombola, cosa usi per segnare? La mia prima curiosità, cosa usi per segnare i punti? Uso, in pratica, sono, non posso dire, sono dei tappetini di sughero. Una cosa molto spartana. Sì. Beh, c'è anche di più spartano, usare legumi, cose così. Insomma, va bene. E qual è, perché secondo te rappresenta l'Italia? Potrebbe rappresentare l'Italia, ovviamente, un gioco? Sì, perché dà quel senso di calore della terra, di armonia, di amicizia, capito? Che noi italiani da nord e sud siamo molto legati. Va bene, quindi ci proviamo. Cristian, buon viaggio, buon lavoro se stai guidando per lavoro. Segniamo anche la tombola. Non so se abbiamo Bruno da Roma all'800240024. Pronto? Sì, pronto. Mi sente? Sì, eccoci, sei in onda, Bruno. Qual è la scelta? Allora, io volevo raccontarvi del gioco dei tarocchi. Sì, perché? Perché i tarocchi, le classiche carte dei tarocchi, si fa un gioco a carte che è molto molto bello e si gioca però in pochissimi posti in Italia, si gioca a Genova, si giocava perlomeno a Genova, sulla Riviera Ligure, un pochino nel Basso Piemonte e poi hanno fatto il circo, un'associazione del tarocchino a Bologna. Ma io non ho sui tarocchi un dubbio, ma è un gioco o è una cosa di divinazione? No, è un gioco di carte. Allora, con i tarocchi si gioca, il gioco si svolge, cercherò di essere conciso, è a presente il 3-7? Sì, esattamente, sì. Un 3-7, quindi bisogna rispondere al seme, un 3-7 con le briscole, quindi una briscola e 3-7 insieme. Le briscole sono i tarocchi e le carte normali sono le carte, i quattro semi, giusto? E le dirò di più, tempo fa avevo un albergo e parlo pochissimo le lingue, quasi mai. Mi arrivano in albergo degli, non so se erano svizzeri, francesi o francesi, non mi ricordo bene, e vedo che cominciano a giocare a tarocchi fra di loro. Io mi sono infilato in mezzo e mi sono messo a giocare con loro, non sapendo le lingue ci siamo fatti una bellissima partita a tarocchi. Quindi tarocchi anche come lingua internazionale, lo prendiamo per questo motivo. Sì, tarocco è una lingua internazionale, ma è un gioco bellissimo. Va bene, Bruno, io la segno questa cosa, non c'è problema, la ringrazio e vorrei sentire se è in linea con noi Sergio da Trieste, benvenuto. Sì, sono in linea, vi saluto, sono molto contento di sentirvi tutte le ore e tutti i minuti. Volevo parlarvi della dama cinese. La dama cinese è un gioco cinese, sì, però non ha problemi né di dadi né di nascondere niente. Si possono giocare da 2 a 3 a 4 a 5 a 6 persone. In duo, io e mia moglie al mattino dopo il caffè ci mettiamo ormai 12 minuti, 10 minuti. In 6 si mettono 2 ore. Bisogna mettere... Voi ci mettete 12 minuti a finire una partita? Sì, ma noi siamo con 13 palline. Si tratta di spostare o saltare le palline sue o quelle del nemico, ma senza mangiare niente. Io per esempio uso sempre le celesti, mia moglie le rosse, e ci mettiamo uno contro l'altro. Naturalmente sembra che le prime due o tre mosse sono sempre uguali, e invece no, ognuno deve pensare a spingere avanti un 2-3 per poter aver gioco, e dopo bisogna fare una muraglia perciò che il nemico non venga giù, perché sennò quello lì viene giù e si perde, insomma. Grazie, grazie Sergio. Mi piace anche una bella storia di coniugale, diciamo, questa della dama cinese. E io vi leggo un sms al volo, perché Marina, però da Chieti, adora giocare a Machiavelli come Marina da Milano. Se riuscite a venirvi incontro tra Chieti e Milano, siamo a posto. Michele Boroni, benvenuto. Benvenuto, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, Achille, a tutti gli ascoltatori. Michele, vorrei chiudere con te, perché tu sei un blogger, hai avuto una rubrica sul Foglio sulle Olimpiadi, ti intendi di giochi, di tecnologia, eccetera, ma io oggi ti ho chiamato perché tu nel 2003 hai scritto un post su come si gioca le biglie in spiaggia. Sì, in realtà era proprio un come dire, una storia di un pomeriggio proprio di agosto, in cui i vari trentenni e quarantenni che ci conoscevamo appena in un bagno di Viareggio si lanciavano in qualche modo dei segnali inequivocabili, perché tutti in fondo volevano fare una pista da spiaggia, ma nessuno in realtà voleva dirlo all'altro. In un qualche modo poi a un certo punto uno è venuto fuori con queste bilie ed è iniziato questo, la costruzione della pista, che poi alla fine è quello il gioco. Ecco Michele, io questa cosa ti chiedo perché del tuo racconto mi ha colpito questa cosa qua: si inizia a costruire la pista alle 16, finisce alle ore 18. Sì, infatti, perché alla fine è più la costruzione del gioco, il gioco stesso, che la gara. Poi alla fine, come dire, la gara in sé per sé dura mezz'ora, cioè tutta quella fase di competizione che poi alla fine non è interessante. La cosa interessante è proprio la componente più sociale, socializzazione della costruzione. E quindi cosa vuol dire? Fare la curva con la parabolica alta, o costruire dei particolari impedimenti o buche varie per rendere ancora più eccitante e difficile la gara. Bene Michele, ti ringrazio, siamo in chiusura. Mi piace questa cosa che è più importante la preparazione del gioco, io mi ci ritrovo molto. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato, Valerio Rocchetti per la parte tecnica, Antonella Migliaccio per essersi occupate della redazione. Continuate a votare, noi torniamo domani alle 16.30, replica alle 20.30. Grazie a tutti da Achille Corea. Posto numero 12, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.